Sono le 10:10, quindi possiamo andare, perché dovrebbe essere collegata telefonicamente la compagna, col primo collegamento a Piramide, dove si è concentrata, direi, la parte su cui in certo senso riponiamo più, diciamo, le aspettative, perché poi insomma lì a Piramide sono concentrati gli studenti medi che tanto hanno dato affinché a questo appuntamento si giungesse non proprio, insomma, senza alcun retroterra alle spalle, ma con un percorso di lotta avviato, che è quello delle scuole occupate. Allora, come va, Bianca? Sì, ciao a tutti. Ciao. Allora, qui la situazione, diciamo, sta andando molto bene, nel senso che devono ancora arrivare tantissime scuole, e già al momento la piazza di Piramide saranno più o meno 8.000 persone, e si parla di altri cortei. Uno partito da Prati, dal Virgilio, che stanno confluendo qui e che parlano di numeri da certe migliaia di persone a corteo, insomma. Quindi la situazione è già grandissima e sta crescendo sempre di più. Le scuole che sono in piazza oggi sono tantissime, saranno più di 50, e sono tutte le scuole che hanno occupato in questi giorni, continueranno a occupare da domani. E non sono solo scuole di Roma, ci sono anche scuole dei Castelli o del Lazio. E lo striscione d'apertura di testa del corteo recita: contro la scuola della crisi, costruiamo la scuola delle lotte. L'atteggiamento delle forze dell'ordine in questo momento è abbastanza rilassato, nel senso che ci sono gli uomini a vista, ma sono totalmente sproporzionati rispetto al numero di persone che c'è in piazza adesso. Bene, meno male, almeno per ora, salvo, diciamo, occupazioni militari delle vie laterali. Probabilmente, insomma, comunque l'allarme in città è scoccato per questa data, quindi da parte nostra, insomma, c'è bisogno di non farsi cogliere impreparati su nessun piano. Senti, dunque, come credi che si svilupperà questo corteo? Quali zone andrà a toccare prima di riversarsi nel centro cittadino, immagino? Allora, la volontà espressa dagli studenti medi nelle assemblee che hanno portato alla costruzione di questo corteo è quella di ricongiungersi al corteo partito invece da Aldo Moro, quindi oggi si tenterà di fare questo. Bisogna appunto prima partire il corteo e vedere quale continua ad essere l'atteggiamento delle forze dell'ordine. Comunque la volontà è quella di andare verso Colosseo, insomma. Va bene, ma questo pezzo di corteo è autorizzato? No, ecco. Non hanno chiesto l'autorizzazione per il corteo come fanno sempre, nel senso che le scuole hanno deciso ormai da dopo l'onda, insomma, di non chiedere, di non preavvisare i cortei, proprio per rivendicare il fatto che gli studenti sono liberi di muoversi per la città e che la città non è della questura, insomma, ma è di chi la vive. Comunque volevamo dire che ci sono anche moltissimi e moltissime studenti e studentesse medi che stanno già a Piazza Aldo Moro, e un'altra parte di studenti dei medi stanno invece arrivando da Termini, da Castro Pretorio, in realtà sempre verso Aldo Moro, insomma, quindi ci sono altri concentramenti che, per provenienze diverse dalla città e non solo, arriveranno per altre strade, insomma, quindi questo volevamo farlo sapere a voi e anche a chi ci ascolta, per dare un po' la misura della mobilitazione. Certo. Va bene, allora ci si attende un concentramento dalle proporzioni, insomma, belle grandi, proprio lì ad Aldo Moro, in cui confluiranno vari spezzoni che sono in marcia o che ancora devono mettersi in marcia, come il vostro, Bianca. Ci sentiamo più tardi. Va bene, grazie mille. A dopo. Ciao.